Allora, buonasera a tutti quanti. La lezione di questa settimana legata alla parashah che viviamo questa settimana, che è la parashah di Vayetze. E con il titolo che è stato annunciato, come o se incontrare Dio sul lavoro. Say it again. Come? Come incontrare il Signore sul lavoro? Allora c'era un signore, buonasera, benvenuti. C'era un signore che faceva sempre scherzi. E questo signore entrava sempre l'ultimo al tempio e usciva il primo. Entrava per qualche minuto, pregava per pochi minuti e usciva. Un giorno il grande maestro della città lo convocò presso di sé e gli disse: com'è possibile che a me serve un'oretta per pregare? Com'è possibile che tu ci riesci in così poco tempo, già chiudi il libro della Tefilà e te ne vai? Qualche minuto. Allora dice: ma caro rabbino, è molto semplice la risposta a questa domanda. Grazie a Dio lei ha una bella casa, una grande casa, la comunità ha messo a sua disposizione, una brava moglie, molti belli bambini, e i suoi chassidim gli hanno fatto avere una carrozza con 6 bei cavalli, in modo tale da poter avere la tranquillità di studiare la Torah con calma. E la sua tefilà è lunga perché lei deve pregare a Dio di aiutare tutti i suoi chassidim, di stare tutti in buona salute, in buona prosperità, la famiglia, la casa, i cavalli, la carrozza, tutti i beni, eccetera, eccetera. Io invece sono una persona molto semplice, che tra l'altro poco fortunata. L'unica cosa che ho è una moglie. E l'unica cosa. Quello che ho nella mia vita è mia moglie. E poi ho. Cosa è l'unica cosa di cui che mi appartiene? Una capra. Allora io, la mia tefila è molto breve: dico a Kadosh Baruch Hu, per favore benedici mia moglie, fai vivere la mia capra, e finisco la tefila e vado via. Molto spesso l'idea che noi ci facciamo dei tzaddikim, in generale e nel corso delle generazioni, è un'idea di persone staccate dalla realtà mondana del mondo, che non hanno alcun rapporto con il lavoro, con la fatica fisica e coinvolgente dal punto di vista anche materiale. In realtà questa nostra idea non viene dal nulla, perché in effetti nella Torah, quando si parla del compito della tribù di Levi, in particolare tra tutte le tribù, si fa un po' questa figura, almeno idealmente. Cioè che ci sia qualcuno che sia dedicato solo allo spirito, all'insegnamento, al mantenimento delle tradizioni e la loro trasmissione, e non quindi a aspetti più mondani per doversi guadagnare da vivere, cioè persone che sono sostenute dalla comunità per appunto dedicarsi a questi aspetti della nostra esistenza. Qui vediamo nella prima fonte qui citata, se volete vedere sul foglietto numero 1, dal Rambam, dal Maimonide. Tra l'altro il Rambam stesso, che è uno dei più grandi maestri che abbiamo avuto nel corso della nostra bellissima storia, lui ha scelto di lavorare come medico. E non, sì, ma era anche un medico personale del sultano in Egitto. Quindi è una figura molto importante. Sì, però ha scelto di lavorare con una cosa, con questo tipo di carriera e non di essere un peso, tra virgolette, sul pubblico che avrebbe forse potuto esserlo, nel senso avrebbe potuto meritare una pensione degna del suo sostentamento e insegnare, scrivere, cosa che fece, però lavorò anche in carriera. Tu mi ricordo hai parlato Sì. del Rambam, una lezione, hai fatto una lezione completa Sì, sul bravo. Quando Rambam abbiamo e mi concluso ricordo che l'assunto. c'era un discorso del fratello Okay. che teoricamente ci doveva essere Buonasera, buonasera. questi compiti, che il fratello avrebbe dovuto teoricamente andare a lavorare Bravo, è vero. e lui, Il però poi è fratello successa una lavorava e lo disgrazia, sosteneva. e poi è successa una disgrazia, mi sembra una cosa del genere. Ti ricordi bene, È bravo, giusto bravo. quello che ho Sì, è detto? giustissimo. Buonasera. Buonasera. Finalmente ci vediamo. Finalmente ci vediamo. Shabbat, non sono riuscita a salutarti, anzi scusami. Oggi No, praticamente non ci siamo neanche visti. scusa, Allora, ti ho visto prego, prego. Tanto noi già abbiamo iniziato qualche minuto fa. Parliamo della figura dello tzaddik, come noi lo vediamo spesso, uno che è rimosso dal lavoro, dalla carriera, solo lo studio, la preghiera. Vediamo che questa cosa ha fonte, vediamo dove una delle fonti che ne parla, è appunto questa prima fonte sul foglietto Rambam, alla fine di Ilchot Shmita Yovel, alla fine di una sezione del suo libro di Halakha, e dice così: Velama, perché lo zachà Levi benachalat Eretz Israel ubevisata imechav? Per quale motivo la tribù di Levi non ha, assieme ai suoi fratelli, cioè agli altri tribù, ricevuto una parte del territorio di Eretz Israel? Allora spiega, Mipne, poiché Shehuvdal è stato distinto questo Levi, questa tribù, la Avod et Hashem, per dedicarsi al servizio di Hashem, uleshartò e servirlo appunto nel Tempio, nel Bet HaMikdash, ולהורות דרכיו הישרים, e di istruire, להורות, è la stessa radice della parola Torah, che vuol dire istruzione, cioè di istruire le vie rette del Signore, la Rabbim, al pubblico. Lefichach, perciò, huvdelu mi darkei haolam, sono stati distinti, separati dai modi comuni del mondo. E quindi lo orchim milchama, kishar Israel, non sono tenuti a fare il militare come gli altri quando serve per fare una guerra. O velo nohalim, inoltre non ricevono territorio, velo zochin leatzman bekoach gufam, e non guadagnano, detto in parole povere, con la forza del loro corpo, cioè della loro fatica Fatica, mondana. sì. Ela hem chel Hashem, sono considerati il militare di Dio, tra virgolette, cioè le forze speciali a livello spirituale. Ora, questo è quello che abbiamo citato dal Rambam, è quello che la Torah espone, sarebbe stata la situazione e il ruolo di una tribù specifica che è la tribù di Levi all'interno del popolo ebraico. Cioè, quindi tutti in realtà dovrebbero dedicarsi a una vita normale di 6 giorni di lavoro e lo Shabbat di riposo, e con le varie con le decime, i doni che sono stati predisposti dalla Torah, devono sostenere i Leviti e i Coanim, ovviamente, che fanno parte anche loro della tribù di Levi, e così via. Come se è giusto che ci siano delle persone che non debbano preoccuparsi di problemi mondani per potersi invece occupare di problemi spirituali. Però c'è una perplessità a riguardo, perché in queste settimane noi stiamo studiando la storia dei nostri patriarchi, e tutti i nostri patriarchi erano persone che lavoravano molto duro, pur essendo persone di grandissimo spessore morale e spirituale, però ciò non ha tolto dal fatto che avevano dei lavori normali per guadagnarsi da vivere nella casa dei nel caso dei nostri patriarchi, anche con grande successo. che sono diventati benestanti a livello più semplice della parola. Quindi erano grandi commercianti, grandi businessmen, come nel modo che poteva essere all'epoca, però, come dicevamo, con grande successo. Sia Abraham che Yitzhak si occupavano di mandri e di gregge, invece Yitzhak si occupava anche di, abbiamo visto nella parasha scorsa, di scavare pozzi di acqua, no? Quindi di reti idriche, se vogliamo, dell'epoca. Non sono cose piccole. Ma più ancora di Abraham e Yitzhak, Yaakov. Quando noi descriviamo la storia di Yaakov, quando andò a lavorare presso lo zio Labano, Lavan, troviamo che Yaakov ha lasciato Israele, è andato da Lavan, e ha lavorato lì molto molto duro, e lui stesso dice, in uno dei passaggi, che ha lavorato sia di giorno che di notte, cioè ha riposato poco. Ha lavorato molto duro e tra l'altro per quel periodo di circa 20 anni Yaakov non lavorava in proprio come suo padre e suo nonno, era un impiegato, era un dipendente e essere dipendente è ancora più restrittivo di essere uno che lavora in proprio. Buonasera. Allora, è ancora meno, diciamo, lascia ancora meno spazio per una libertà spirituale, una libertà di pensiero, di meditazione, di approfondimento, di tranquillità. No? Il dipendente ha molto più, diciamo, pressione su di sé e quindi ancora di più. Yaakov poteva studiare poco in questo periodo, ci dicono i Midrashim, che recitava più delle preghiere che degli studi approfonditi, e lui stesso dice alle sue mogli in un certo momento: Bechol kochi avadeti et avichen, ho lavorato per il vostro padre con tutte le mie forze, con tutta la mia energia. Bechol kochi. Questa è la prossima riga che è scritta qui dal Bereshit Lamed. Bechol kochi avadeti et avichen. Ho lavorato per il vostro padre con tutta la mia forza. Bayom acholani chorev ha-shemesh sarfak moesh ve-kerach balayla. Di giorno, conoscete il clima di queste zone? Di giorno un sole terribile e di notte un freddo terribile. E ovviamente lui non lavorava dentro un ufficio climatizzato. Allora, qual è l'ideale? L'ideale è quello della tribù di Levi, che dovevano non lavorare ed essere sostenuti dagli altri per occuparsi delle cose spirituali, istruire, o l'ideale è come i patriarchi, che con la loro grande kedushà e spiritualità comunque si occupavano moltissimo dell'aspetto della carriera lavorativa che hanno fatto? È una domanda importante. E tra l'altro, forse non è un caso che questi 20 anni in cui Yaakov, il nostro terzo patriarca, ha lavorato così duro, come lui descrive, nel freddo, nel ghiaccio e nel caldo, sono gli anni in cui in realtà è nato il popolo ebraico. Sono gli anni in cui nascono le 12 tribù. Gli anni forse più importanti per Am Israel come popolo, per la nascita del popolo. Proprio dove? Proprio lì a Haran. E non lasciamo sfuggire un altro fatto legato sempre a questo, ed è l'esito di queste generazioni che sono nate. Cioè, Abraham ha messo alla luce Yitzhak e Ishmael. Yitzhak ha seguito le orme di Abraham, Ishmael non ha seguito le orme di Abraham. Yitzhak ha messo alla luce Yaakov ed Esav. Yaakov seguì le orme del padre Esav no. Jacob ha messo alla luce 12 figli e tutti hanno seguito la sua via. Tutti hanno seguito quella sua strada. E i maestri dicono mitatosh lema. La prole di Jacob rappresenta una certa completezza in contrasto a quanto è successo con Abraham e con Isaac. Sarebbe riuscito in questo grazie anche al suo capacità di ha preso di equilibrio tra quello che era l'aspetto positivo, cioè è tutto positivo, comunque il sì, migliore sì. Di Abramo e il migliore di beh sì, questo è scritto che c'è una sorta di fusione di comunque vediamo quale aspetto vediamo stasera. Allora nella nostra parasha parliamo proprio di questo, della permanenza di Jacob per 20 anni presso di Lavan, dove appunto si è occupato di tutte queste cose. E proprio lì sono nati, parentesi, Beniamin non è nato ancora, 11 delle 12. Beniamin è nato poco dopo, mentre per strada, come sappiamo, quando purtroppo è morta la madre nel parto, Rachel, erano già per la strada di ritorno. Però quasi tutte le tribù sono nate in questo contesto. E come si fa ad arrivare a un successo spirituale così grande mentre ci si occupa così intensamente e profondamente di ciò che sembrerebbe essere qualcos'altro? Vuol dire, non sembra che in quel momento Jacob aveva la possibilità di dedicarsi all'aspetto più approfondito di studio e di meditazione, di preghiera se vogliamo, eccetera. Dove aveva da fare? E nonostante ciò, questo è il prodotto. Come funziona questa dinamica? Allora, nella nostra parasha di Vayetze abbiamo qualche allusione abbastanza chiara su questo discorso qui. Sì, vediamo il numero 2, che è questa piccola riga, dove citiamo il primo versetto della nostra parasha, in quale è scritto Vayetze Yaakov Mibe'er Shava Vayelech Harana, e Yaakov uscì dalla città di Be'er Sheva, Vayelech, e andò Harana, che vuol dire verso Haran. In ebraico Harana è come dire Le Haran, verso Haran. La Hei alla fine può stare invece di una Lamed all'inizio. Vayetze, Yaakov uscì. Non è una parola comune per... Sì, ma non è comune usare... Uno dice sono partito, uno dice sono uscito. Vayisa, è partì. Vayelech, è andò. Però Vayetze non è proprio così comune in questo contesto. Exit. Esatto. Okay. Uno non dice I exited from New York. Uno dice I left. I took a trip, sono partito, sono uscito. Sì, però non è una parola, cioè non è stranissimo, però non è comune, ok? Cioè l'uscire in sé, se ci pensiamo, non serve a molto, uno può uscire e rientrare. È più l'andare o il viaggiare che porta da punto A a punto B. L'uscita di per sé... E Rashi si sofferma su questa parola che non comune in questo contesto e lo citiamo qui nella prossima riga. Rashi dice: Lo haya tzarich lichtov, non avrebbe dovuto scrivere in questo versetto Ela Vayelech Yaakov Harana. Avrebbe invece di dire Vayetze Yaakov mi be'er sheva Vayelech Harana, avrebbe potuto dire Vayelech, Yaakov, Harana, il versetto avrebbe potuto essere di tre parole e risparmiamo, come la Torah sempre vuole risparmiare le parole, avrebbe potuto dire Vayelech, Yaakov, Harana, e Yaakov andò verso Haran, e già abbiamo capito che esce da Beersheba. Non può andare a Haran senza uscire da Beersheba. Lama iskir yetziato, dice Rashi, perché ha dovuto menzionare la sua fuoriuscita dalla città di Beersheba? Evidentemente la Torah vuole trasmettere qualche messaggio nella fuoriuscita dalla città di per sé, a parte il discorso di andare verso Haran, perché la Torah fa proprio due clausole nel versetto. Il versetto è separato in due perché c'è nel canto, nei segni del canto, quando noi leggiamo, recitiamo sul Sefer, una pausa. E Yaakov uscì da Beersheba, pausa. Quindi già è un discorso di per sé. E poi la seconda parte del versetto. E andò verso Haran. Doveva abbandonare una situazione, penso. Vediamo. Cosa dice Rashi? Rashi dice la seguente cosa. L'uscita stessa dalla città, e in particolare l'uscita di un tzaddik da una città, ha un suo effetto. Rashi dice, e lo citiamo subito, Rashi, vedete la prossima riga, Magid, questo ci dice, Sheyetziat, Tzadik mehair, manca la parola tzadik, che l'uscita di uno tzadik da una città ossa roshem, fa effetto. Quando c'è lo tzadik è lui lo splendore della città. Quando lo tzadik esce, la città perde il proprio splendore. Ma sentite le parole di Rashi. Yatza misham, una volta uscito da lì, pana hoda, Panna ziva, panna hadara. Esce fuori lo splendore, esce fuori l'illuminazione, esce fuori un altro sinonimo ancora della città, con il tzaddik. Allora la Torah vuole dire, Yaakov è uscito da Beersheba, Beersheba non è rimasta la stessa. Dove è andato? Vai al Haran, è andato a Haran. Un altro discorso. Stiamo facendo due discorsi. Questo ha spiegato Rashi. In un suo discorso il Rebbe dice c'è un altro senso in questo Vayetze. Non è solamente uscito dalla città di Beersheba. È uscito fuori dal suo elemento naturale. È uscito fuori da se stesso. È andato ad affrontare un'altra cosa totalmente. È uscito fuori dal mondo che lui conosceva, è uscito fuori da tutto ciò che era scontato per lui ed è andato ad iniziare con questa uscita un nuovo periodo della sua vita. Fino a quel momento Yaakov era, come dice la Torah nella parasha scorsa, Toledot, era una persona che giaceva nelle tende. Cosa si intende per giacere nelle tende? Studiava. Lì si contrastava con Esav. Esav era quello che andava a caccia nelle foreste, nei campi. E Yaakov era quello che rimaneva con i libri, rimaneva nel suo studio. Era all'interno del suo mondo interno. Questo era Yaakov quando si trovava nella città di Beersheba. Quando la Torah dice Vayetze Yaakov mi Beersheba, non ci sta dicendo che ha fatto un viaggio, quello lo dice, andò a Haran, lo dice dopo. Ci sta dicendo uscì fuori da quel tipo di vita. Cambiò modalità di servire Hashem. E questa cosa potrebbe spiegare un'altra perplessità che riguarda Yaakov. Abbiamo molti dettagli nella Torah sulla vita di Abraham e sulla vita di Yitzhak, i nostri primi due patriarchi, vero? Ma tutti questi dettagli sono racchiusi in circa tre parashiot e mezzo nella Torah. Lech lecha, vayerach, hayesera, mezzo toldot. Toledot, la vita di Yaakov, ne parliamo sulla bellezza di sette parashiot, fino alla fine adesso del libro di Bereshit. Quindi molto più approfondito da questo punto di vista. Però, quando veniamo a conoscere Yaakov, sì, abbiamo visto dal momento che è nato, ma fino a che andiamo ad approfondire la storia di Yaakov, come iniziamo in questa parasha, Sapete quanti anni aveva Yaakov quando è uscito da Beersheba e è andato verso Haran? Tanti. Quanti? 80. Più di 60. 89. Ne aveva 77. 77. Tutti questi decenni non sono raccontati nella Torah. I decenni che sono raccontati sono la minoranza rispetto a questi. Lui ha vissuto di meno rispetto agli altri due patriarchi. Diverso, molto di meno. E la, perché? Perché non si racconta niente. Se abbiamo dedicato 7 parashiot, possiamo dedicare un'altra mezza parashah, un'altra parashah per raccontare qualcosa in più? No? Perché no? Yaakov, rispetto al suo padre, suo nonno, ha vissuto di meno. Allora, la risposta, detta in maniera estremamente secca, non c'è niente da raccontare. Yaakov stava nelle tende. Ecco, la Torah ha raccontato la vita di Yaakov finché è uscito da Beersheba. Questa era la vita di Yaakov. Cosa vuoi raccontare? Ecco, l'abbiamo raccontato. Yaakov ishtam yoshev ohalim. Yaakov era un uomo integro che stava nelle tende. Punto. Questa era la sua vita. Questa è la sua biografia fino a quell'età. Servivano quegli anni di studio per prepararsi a puntare il punto. Ok. Tra l'altro non aveva ancora messo su famiglia, non c'era niente da raccontare. C'era tutto e niente, ma non perché non c'era niente, perché non stava facendo nulla. Non c'era niente, nel senso, non c'è un racconto. C'è il dato di fatto che lui di questo si occupava. Vediamo una fonte midrashica interessante su questa cosa. Midrash Tanhuma. Dov'è? Due qui, se arrivato fino qui. Sì, al 2, secondo paragrafo, dove c'è scritto Tanhuma, in mezzo alla riga. Sì. Perché il Midrash si sofferma su questo termine Ohalim, tende. Che vuol dire stava nelle tende? Quante tende aveva? La tenda è come dire la casa, no? Allora, Yoshev Ohel, stava nella tenda. Perché le tende? Abbiamo detto che non lavorava, non si occupava di mobiliare. Allora cosa sono queste tante tende? Perché si parla di tende al plurale? Allora il Midrash Tanhuma dice questa cosa. Leggiamo. V'Yaakov ishtam yoshev ahalim, ohalim, en ketiv yoshev ohel. Non è detto che stava nella tenda, bensì yoshev ohalim, che stava nelle tende. Allora il Midrash dice, yotze mi bet midrasho shel shem, usciva dalla casa di studio di Shem, il figlio di Noè, era uno tzaddik che insegnava, Shem. E allora Yaakov, quella era una delle tende che lui frequentava. Ve'olech lebet midrasho shel Ever, un nipote di Shem che si chiamava Ever, e da qui anche si lega al nome Ivri. Era anche un insegnante, e lui andava ad imparare anche da lui. Umibet midrasho shel Ever, e dalla casa di studio di Ever, andava alle Bet Midrasho shel Avraham, andava ad imparare dal nonno. E allora era sempre, ballava tra le tende, non era una sola tenda, era uno che si dava allo studio e andava dove c'era da imparare qualcosa di nuovo. Allora stava studiando da Avraham, riceve un messaggio in qualche maniera con un cammello, SMS, che c'è una novità nel Bet Midrash di Ever. Oh, allora vado da Ever, sentiamo cosa c'ha di nuovo da insegnare. E così lui girava nell'ambito dello studio. Non è solo Ohel, una tenda, Ohalim. Questa era la sua vita. Sì. Shmot Rabba, Piresh Me'aviv, Venitman, Bevetever, il Motorah. E poi c'è un'altra fonte che parla di... Adesso non entriamo... nel dettaglio, però ha studiato tanto tempo presso di Ever. Ora, questo era, come hai detto, Rossella, fino a 77 anni. Da quando Yaakov è andato via da Beersheba, con quale scopo è andato via Yaakov da Beersheba? Con lo scopo di creare una famiglia, che questo era il motivo. Cioè, è vero che la madre gli ha detto devi toglierti un attimo di mezzo perché tuo fratello ha delle intenzioni molto pericolose nei tuoi confronti, aggressive. Però, dove vai? Puoi andare in tanti posti, può andare da Ever, da Shem, può nascondersi là, in quei posti dove già conosceva. No, vai da mio fratello perché lì farai famiglia. Lì prenderai moglie da una delle sue figlie. Gli ha detto, anche il padre gliel'ha detto. Cugini. Allora, da quel momento in poi, in cui Yaakov Vayetze uscì fuori da Be'er Sheva, metamorfosi, persona diversa, cambiamento totale. Da 24 ore di studio, 24 ore di lavoro. Yaakov esce fuori da, nel linguaggio talmudico, i quattro cubiti, i due metri quadri della Torah, un modo di dire, e va verso Haran. Haran non è un luogo, diciamo, propenso alla spiritualità. Il nome stesso Haran vuole anche indicare qualche tipo di non rapporto, di rapporto negativo con sì, perché Haran si dice Haron Afshel Makom, dicono i Midrashim, cioè un luogo di cui il Signore è adirato. Haron Af è essere adirato, è un luogo ostile alla volontà divina, è un luogo di corruzione, è un luogo di astuzia negativa, furbizia. Non è un luogo bello da questo punto di vista. Ed è il luogo in cui Yaakov si reca. Se pensiamo al modo in cui Yaakov ha lavorato, e torno su questo punto perché è interessante, Yaakov, vi ricordate la storia? L'accordo era che avrebbe lavorato 7 anni per avere la mano della figlia, e avendo sposato le due figlie, doveva lavorare per 14 anni. Yaakov con Rachel e Lea. Ma dopo che ha concluso il lavoro di 14 anni, cosa ha fatto? Ha continuato a lavorare. Nessuno l'ha forzato. Cioè, non era una cosa che sembrava lo facesse per qualche motivo di forza maggiore che lo ha costretto. Sembrava che lui era proprio di per sé coinvolto in maniera di grande lavoratore che proprio lo fa con gusto e di propria volontà. Inoltre, troviamo nel modo che lui ha lavorato anche un altissimo livello di integrità morale, di onestà. Perché in una certa fase del suo lavoro come dipendente del suo suocero ha iniziato anche a creare un business indipendente, a parte, ma proprio per una questione di, come dire, trasparenza, cosa fece? Continuò il proprio compito da dipendente e mise la gestione del proprio della propria attività in mano ai suoi figli, in modo tale da non sovrapporre e non perdere il proprio tempo con il lavoro della propria attività per non far perdere nulla al suo datore di lavoro nel suo lavoro come dipendente. Cioè, una correttezza incredibile. Midrash Agadol, la terza fonte, racconta questa cosa, dice Natal kol ha-behemot she'alu be'chelko, prese tutte le bestie che furono della sua parte personale, cioè dei suoi beni personali, un tanan levanav lirot, e li diede per il pascolo in mano ai suoi figli. Ve'huro e'sharzo no she'lavan, e lui faceva pascolare il gregge del suocero. Perché? Shena Sahir Rashai, un dipendente non ha il permesso, la sot le atzmo melacha, i melechet balabait, di lavorare per sé mentre lavora per il suo datore di lavoro. Normale. La Gemara racconta una storia nel trattato di Tanit, di un momento in cui, ricordi, abbiamo studiato Tanit? Ricordo averlo fatto, avevo studiato. Un po' di anni fa. C'era un momento in cui non c'era la pioggia, in maniera cronica, in maniera problematica. E vennero un gruppo di persone, rappresentanti di una comunità, presso di una persona che si chiamava Abba Hilkiah, che era considerata una persona giusta, uno tzaddik, e chiesero a lui di, per favore, di pregare, invocare a Kadosh Baruch Hu per la pioggia. Lo cercarono e lo trovarono mentre lui era un dipendente, faceva un lavoro dipendente e lavorava la terra per qualcuno e stava lavorando la terra, mentre quando lo trovarono era sul suo posto di lavoro. Lo salutarono e lui non rispose al saluto. Maleducato, no? Dopo che finì di lavorare, loro lo aspettarono. Quando lui finì di lavorare, salutò queste persone e disse loro che mentre lavora, ed era un dipendente che lavorava a orario, non può far perdere un momento al suo datore di lavoro. E per questo motivo non ha neanche preso il momento per rispondere al saluto. Abba Hilkiah. Dovrebbero mettere il contratto dei dipendenti del Comune di Roma, questa cosa qui, eh. Oggi si parla dei diritti del dipendente, certo. No? Ma la Torah parla molto del dovere del dipendente, esatto. Che non è da meno. Oh. E anche nelle opere di Halakha si imparano diverse cose dal comportamento di Yaakov, tra cui il fatto che il dipendente deve usare ogni momento del tempo che è pagato per lavorare, per appunto lavorare, non perdere il tempo. E inoltre un'altra cosa: al di fuori degli orari del lavoro, in molti casi è vietato che il dipendente prenda un altro lavoro che fa sì che quando lavora per il suo datore di lavoro è stanco, non può concentrarsi, non ha le energie necessarie. Anche questo è un problema nella halakha. Doppio lavoro. Immagina, tu sei un dentista, se quando adesso la notte vai a lavorare in una discoteca, immagina quando stai lì a fare un intervento sui denti, come verranno fuori questi denti. Cioè, verranno proprio fuori questi denti. Allora. Beh, aspetta, però, se lavoro a discoteca mi dà da guadagnare. Ah, cambio lavoro? Però non puoi fare tutte e due le cose. Sarebbe vietato. Quello che adesso tutti i giovani fanno. C'è un sì, detto che fanno di tutto. C'è un detto? Diccelo. No, veramente. C'è anche un detto swahili. Scherzo. Aspetta, non si può stare con. Benissimo. Allora, Rambam, guardate la fonte, il secondo paragrafo. Signori, gentilmente. Guardate la fonte Rambam, cioè il secondo paragrafo del numero 3. Nelle leggi Sechirut, nelle leggi di assunzione, di lavorare per qualcuno, allora dice che derech shemuzhar balabait shelo yigzol sechar ani, nello stesso modo che un datore di lavoro è vietato che questo datore di lavoro trattenga e quindi ruba la paga di un povero che ha bisogno per mangiare. Anche il povero, cioè quello che sta lavorando per lui, in questo contesto lo chiamiamo il povero, nel senso non può rubare il tempo del datore di lavoro. Sheloi gzol melechet balabait, vivatel meat bekan, meat mekan, perde un po' di tempo qua, un po' di tempo là. E la chayavle dakdek alatzmo basman, deve essere molto preciso e esatto con i tempi. Seconda cosa, numero due, ena poer rashai lasot melachto balailo laskiret atzmo bayom. Un dipendente non può fare il suo lavoro se lui deve lavorare di notte, nel suo lavoro principale, non può andare a farsi disponibile per un altro lavoro anche di giorno. Come può poi fare lavoro di notte se lavora anche di giorno? Allora, la domanda è, dove è Dio in questo lavoro? Dove è la Kedushah? Dove è la spiritualità? Nell'esempio estremo di Yaakov, che lavorava per il suo datore di lavoro di notte nel ghiaccio e di giorno nel sole del deserto, dove si trova qui la Kedushah? Riscatto. Il riscatto del materiale? No. Cosa? Il riscatto della prima parte della sua vita. Cioè, deve fare metà così, metà così? No, che aveva solo studiato e non aveva mai lavorato. Ok, tu stai parlando di Yaakov. Yaakov è l'esempio estremo, ma in generale non è detto che nel lavoro non si possa trovare la Kedushah? Sì, sì, però io faccio Yaakov come esempio estremo perché lui ha lavorato di notte e di giorno. Ok, allora tu dici che era l'opposto di quello che faceva prima. Bene, però come si applica a noi? Come si applica alla vita di qualsiasi persona che ha questo duplice aspetto nella vita? Abbiamo il doppio lavoro. Facciamo in certo senso il doppio lavoro, nel senso abbiamo l'aspetto spirituale, abbiamo l'aspetto materiale come per tutte le cose. Allora la domanda è in generale, per l'ebraismo, quando noi dobbiamo lavorare per guadagnarci da vivere, da mangiare, è visto come un ideale o è visto come ciò che bisogna fare per mancanza di scelta? Cioè, è meglio vincere la lotteria e non dover lavorare, oppure è proprio voluto che lavoriamo e che fatichiamo e questo fa parte del nostro percorso? Ma quello sicuramente, no? Non so dove, ma comunque l'ebraismo dà un altissimo valore al lavoro. Bene, bene, però adesso vediamo qualche fonte, perché non era così scontato per tutti. Vediamo la fonte numero 4, che tratta dal trattato di Berachot nel Talmud, dove vediamo una cosa interessante. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, il famoso Rabbi Shimon bar Yochai. Famosissimo. Perché nel Talmud quasi sempre si dice ben Yochai. Bar vuol dire ben in aramaico. Nel Zohar c'è più comune bar e nel Talmud più comune, nella Mishnah più comune ben. Ben. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Efshar, è forse possibile? Adam, cosa fa l'uomo? Choresh bishat harisha. Il momento dell'aratura, ara la terra. Zorea bishat zria, momento della semina. Kotzer bishat ktzira, momento della mietitura, deve mietere. C'è sempre qualcosa da fare. Torah matehe aleha, cosa ne sarà della Torah? Dice Rabbi Shimon bar Yochai. Ella, solamente, qual è l'ideale per lui? L'ideale per lui è Smance Israele o Simritzono Shel Makom, nel momento in cui il popolo ebraico mette in atto la volontà del Signore, Melachtam Naaset Bidei Acherim, tutte queste loro opere possono essere messe in atto da altri. Verak, ma che c'è in Israele o Simritzono Shel Makom, quando Israele non mette in atto la volontà del Signore, allora Melachtam Naaset Alidei Atzman, sono costretti a fare tutto ciò da soli, per sé. Da soli. Secondo Rabbi Shimon bar Yochai, il lavoro non è un ideale. Secondo lui l'ideale sarebbe se si vincesse la lotteria spirituale. Per Rabbi Shimon bar Yochai sarebbe meglio dedicarsi solo allo spirito. E lui ha vissuto secondo questo ideale, ma lui era quasi unico. Il Talmud lì conclude dicendo che non è possibile vivere come Rabbi Shimon bar Yochai. Ma lui lo fece, Ma lui fu un'eccezione. Lui visse 12 anni nella caverna senza conoscere il mondo materiale, quasi. In qualche maniera miracolosa. Come conosciamo tutti la storia, la raccontiamo tutti gli anni a Lag BaOmer. Però era una cosa che andava bene per pochi eletti. E il Talmud stesso dice, Rabbi Ishmael dice, non sono d'accordo. Questo va bene per lei, Rabbi Shimon, ma non per tutti. È come se lui fosse una piccola reincarnazione della tribù di Levi, quella persona dedicata che deve essere sostenuta per mantenersi dagli altri, per potersi dedicare a quella vita spirituale. Però non è da tutti, è una piccola percentuale delle persone. Non solo. Rabbi Shimon ben Yochai stesso, quando uscì da quella caverna, la Gemara racconta, e aveva difficoltà a confrontarsi con la realtà del mondo così com'è, ha fatto anche qualche danno, c'è scritto, e gli è stato detto, torna nella caverna. È tornato per un altro anno di un periodo di, come dire, assestamento, per collegarsi all'altro tipo di realtà, quello più comune, quel tipo di realtà più comune. Quello che lui non conosceva prima, o almeno se n'era dimenticato. Cosa dice la Torah ai primi esseri umani subito dopo che sono creati? Guardate la fonte Bereshit Aleph, Kavchet, tipo quattro paragrafi prima della fine. Vayevare chotam Elohim, il Signore li benedì ad Adamo ed Eva, Adam e Chava, e disse loro, vayomer lahem Elohim, per urvu, moltiplicatevi, prolificatevi, umilu et haaretz, riempite la terra vechivshuha, e conquistatela. Urdu, e siate, e governate, bidgatayam, governate che cosa? Tutte le esseri viventi. I pesci del mare, offa shamaim, i volatili del cielo, col chayaro meset alarez, e tutti gli esseri viventi che brulicano sulla terra. L'uomo è stato creato e gli è stato dato il compito di occuparsi della terra e di tutto ciò che vi si trova. HaKadosh Baruch Hu non ha detto... Allora, guardate, vi ho creato, state in questa situazione materiale, ma cercate il più possibile di distaccarvi da questo mondo. Ha detto il contrario. Occupatevi di questo mondo. Le ovda u le shomra. Lavorarla e proteggerla, la terra. Una mitzvah, un precetto, un concetto importante nell'ebraismo è Yishuv HaOlam, civilizzare il mondo, renderlo un luogo dove si può vivere, accogliente, giusto, sviluppando questo mondo, perché è creato come una giungla e l'uomo ha il compito di svilupparlo e di mantenerlo, di sfruttare nella maniera giusta, eccetera, eccetera. E questa è la sorta di società che, quando si dice l'uomo è socio di Dio nella creazione, si intende anche questo, che Dio ha dato un mondo imperfetto in mano all'uomo. Cioè, la visione della Torah è diversa dalla visione di molte correnti moderne, che dicono il mondo nel suo stato naturale è giusto, l'uomo è arrivato e l'ha rovinato, allora dobbiamo lasciare il più possibile che la natura vada avanti così. La Torah non dice questo, concludo, la Torah dice il contrario, la Torah dice il mondo nel suo stato naturale è grezzo, l'uomo ha il compito di svilupparlo nella maniera giusta. Non vuol dire che ogni cosa che fa l'uomo va bene, l'uomo purtroppo sbaglia molto, questo lo sappiamo tutti. Ma bisogna fare l'appunto di come la Torah vede le cose. Prego. No, è quello che dicevi. Che stava bene senza l'uomo, il mondo, la natura, è quello che dicono nel mio dipartimento. Lo so, per questo l'ho detto. Allora, in una fonte importante di Avot, non il Pirkei Avot, ma è tipo un commento di Pirkei Avot e Rabbi Natan, diciamo un trattato di Avot allargato, c'è scritto lì, Gedolahi Melacha, quanto è grande il lavoro, dicono i maestri. Così come gli ebrei sono stati comandati, non è qui nelle città, ah sì sì sì, è qui, Gedolahi Melacha, Avot e Rabbi Natan, il terzo paragrafo del quarto, prima del numero 5, Gedolahi Melacha, quanto è grande la Melacha, il lavoro. C'è che Shem, Shenitztavu, Israel alla Shabbat. Sentite delle parole. Nella stessa maniera in cui il popolo ebraico è stato comandato, è stato istruito al precetto dello Shabbat, cioè del non fare Melacha, Kach Nitztavu alla Melacha. Nella stessa maniera che devono fare lo Shabbat, devono lavorare negli altri sei giorni. Shenemar, come detto, Sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha u'bayom ha'shevi'i tishbot. Questo è un versetto che secondo questa fonte è tutto un precetto. E il precetto è: per sei giorni lavorerai e farai tutte le tue opere e il settimo giorno riposerai. Esattamente come è una mitzvah riposare Shabbat, è una mitzvah lavorare sei giorni. Niente domenica più, ragazzi. Sei giorni lavorare. Niente weekend lungo. Ma lo sai quando proprio sì. Poi dico anche bello, non devo lavorare. Diciamo, è come una sorta di, diciamo, la giornata lavorativa è come una sorta di anno in versione ristretta per il popolo ebraico. Non credo sia escluso. Non credo sia escluso il concetto della pensione, se è prevista la pensione, dico, no, non credo sia escluso. È lavorato. Dopo la guerra del Kippur, signori, dopo la guerra del Kippur, e alcuni di voi ve lo ricordate, la situazione in Israele era molto molto depressa, molto depressa, molto difficile, molto molto giù, molto giù. Il sentimento era un sentimento che non c'è modo di migliorare la situazione, diciamo così. Un Hasid benestante negli Stati Uniti si chiamava David Deitch. È venuto dal Rebbe, lui abitava a New Haven, Connecticut, è venuto dal Rebbe, era un Hasid del Rebbe, è venuto dal Rebbe e ha detto al Rebbe: cosa possiamo fare per Israele? Cosa posso fare? Era una persona molto pratica, un uomo d'affari, molto di gran successo, non è che parlava di cose. Cosa posso fare? Il Rebbe gli ha detto: molti ebrei in Israele hanno bisogno di Parnassà. Hanno bisogno di sostentamento, tutto parte da là. Parliamo adesso di grandi cose, faremo questo, faremo questo. Dobbiamo trovare lavoro. Allora dice: se tu vuoi fare qualcosa, studia come sarà possibile per te creare delle fabbriche in Israele che possono essere valide per... redditizie. Possono essere redditizie, grazie, e così puoi creare posti di lavoro. Che lui questo faceva già negli Stati Uniti. Dice: vuoi fare per Israele? Fai, questo puoi fare. In quel momento lui aveva un giovane genero che si chiama Meir Zeiler, conosco benissimo personalmente, e lui ha detto: ok, io lo faccio. Con l'aiuto del suocero lo faccio. È andato in Israele, a Kiryat Malachi, sud, e ha creato una grande fabbrica di tessile che ha dato lavoro a centinaia di famiglie, centinaia. E questo Zeiler voleva ovviamente allargare il numero di fatturato, di ordini che riceveva, eccetera. E lui partecipava nelle varie fiere europee di tessile. Però aveva un problema. Qual è il problema? Che le fiere normalmente iniziavano dal mercoledì fino alla domenica, bravo. Allora, come i congressi, allora nel bel mezzo della fiera, quando le cose iniziano e diventa venerdì pomeriggio, deve chiudere fino a sabato sera, praticamente fino alla fine della fiera quasi. Allora lui, ovviamente, essendo un ebreo osservante, tutto quanto, ok, questa è la situazione, Shabbat e Shabbat, 2 ore prima della chiusura di venerdì metteva una scritta sul suo stand della fiera, dove c'era scritto che per la prossima giornata questo stand è chiuso in osservanza del sabato ebraico, proprio scritto così. Una volta, quando lui era a New York, ha raccontato questa cosa al capo del segretariato del Rebbe, si chiamava Rav Khodakov. E gli ha detto: guarda, io ho questo problema, però ho risolto in questa e questa maniera. Dopo qualche tempo il segretario Rav Khodakov del Rebbe lo ha chiamato, a questo Zeiler, e gli ha detto: ascolta, io ho raccontato al Rebbe quello che tu hai detto. Il Rebbe ha detto che non basta. Come non basta? Ha detto: questa scritta che tu metti 2 ore prima di Shabbat, lo devi mettere già dal mercoledì, quando si apre la fiera. Da subito lo devi mettere. La gente si affrettano per fare gli affari, il business. Sì, ma anche da una parte il cliente saprà già da prima, no? Appunto, quello. Però non è solo questo. È anche che se HaKadosh Baruch Hu ti ha mandato a Milano o a Parigi per una fiera, HaKadosh Baruch Hu ti può mandare la stessa Parnassà se rimani a Gerusalemme. Non è che per lui è difficile. Se il destino ha voluto che tu vai lì, vuol dire che hai anche un ruolo di dimostrare come si comporta un ebreo, di essere un esempio. Allora non aspettare 2 ore prima di Shabbat, metti da subito. Sei un ambasciatore di un ideale, non solamente una persona d'affari. Questo nel caso in cui uno si trattiene, come hai detto. Beh, sì. E se no, uno venerdì può tornare a casa. Esatto. E dal punto di vista della Kabbalah, dell'insegnamento cabalistico delle cose, grazie. In ogni oggetto, in ogni attività materiale, è nascosto un raggio, una scintilla del divino. Qualche cosa di profondo, di spirituale, che lega quella cosa alla sua fonte divina. All'inizio della creazione è scritto: Veruach Elohim merachefet al pene amaim. Lo spirito del Signore aleggiava sopra le acque che coprivano ancora le terre. Che è una frase, non è molto comprensibile cosa si intende. Però a livello di allusione cabalistica, la Kabbalah spiega che la parola merachefet è un acronimo di Rapach Meolam Atou, cioè Rapach corrisponde al numero Resh Pechet, cioè 288, dal mondo del Tohu. Il mondo del Tohu sarebbe questa situazione spirituale di cosiddetto caos, dove risulta in queste 288 scintille divine che finiscono per essere nascoste in tutta la materialità, che a loro volta diventano miliardi e miliardi, ovviamente, no? Allora, uno dei scopi principali della nostra vita su questo mondo è di riscoprire, rilegare alla loro fonte queste scintille. Facendo che cosa? Allargando, ampliando i confini della Kedushah. Cioè, che quel Zeiler è stato in Israele è arrivato a un confine, ma andando a una fiera a Parigi ha allargato il confine insegnando, facendo l'esempio dello Shabbat. Ha allargato il confine della Kedushah, ha ampliato il confine della Kedushah. Così come ognuno di noi fa ogni volta che facciamo una scelta giusta in questo contesto. Ogni volta che una persona, ogni volta che un ebreo si interfaccia, interagisce con qualcosa, ne può risultare una nuova Kedushah. Ne può risultare una nuova conquista positiva. Ne deve risultare. È un modo di letaken, letaken olam, diciamo ogni giorno nella tefilah, nell'Aleinu l'Shabbach, letaken olam be malchut shak, cioè di aggiustare il mondo secondo il regno, cioè la volontà del divino. Se io lavorassi la terra con l'intenzione che da questa terra verrebbe fuori un prodotto che potrà essere una fonte di energia per creare del bene, per ringraziare Hashem, per fare del bene a qualcun altro, allora quel lavoro stesso è santificato. Lì ho incontrato Dio sul lavoro. Se io da quel lavoro che faccio non solo creo dell'energia, ma direttamente faccio una tzedakah per aiutare qualcun altro, allora ho santificato quel lavoro. Se io nel posto di lavoro faccio sì che il lavoro non sia sterile da tutto il resto della mia vita, ma che se c'è il momento di fare mincha, prego mincha nel mio posto di lavoro, allora ho creato la Kedushah nel posto di lavoro. Cioè, non ci deve essere questa, in inglese si dice compartmentalization, creare scompartimenti che uno non è legato ed è totalmente sconnesso dall'altro. Non è così? Compartimenti stagni. Anche mettere una mezuzah davanti. Bravissimo, una mezuzah è un ottimo esempio. È giusto, una mezuzah, come ho detto, certo, no? È giustissimo. E tutti sapete la storia di quel grande Rav che dopo 120 anni di vita è arrivato in cielo, e vicino a lui c'era un tassista. Hanno detto: rabbino, lei deve andare dall'altra parte dove nessuno vuole andare. Questo tassista subito al Gan Eden, paradiso. Mi dia una spiegazione, almeno una spiegazione. Quando tu facevi le derashot, tutti dormivano. Quando lui guidava, tutti pregavano. Aprivano il libro dei salmi e si mettevano a dire i Tehillim. Per come guidava. Sentite una fonte incredibile, quell'ultima fonte su questa pagina voglio leggere con voi parola per parola, signori e signore, perché è veramente qualcosa di spettacolare che condivido con voi. L'ultima fonte su questa pagina, Or Torah, Rav Magid Mezrich. Or Torah è un'opera che raccoglie dei discorsi, degli approfondimenti del Magid Mezrich, il successore del Baal Shem Tov, Rabbi Dov Ber. E sentite quello che dice. Kol davar, ogni cosa, se Adam lo vesh, che una persona veste un indumento, o chel, o mangia, ingerisce, o mishtamesh biklio, usa un utensile o un recipiente, non è un caso che quella persona veste quell'indumento, che quella persona mangia quel cibo, che quella persona usa quello strumento. Yesham nitzotzot kedushot ashayachim leshoresh nishmato. È perché nascosto in quell'indumento, in quel cibo, in qualsiasi cosa che sia che viene in contatto con la persona, Lì sono nascoste delle scintille di Kedushah che sono legate alla radice della sua anima specifica di quella persona. Veshamati, dice in parentesi, ho sentito dai suoi maestri che Zeu Atam, questo è il motivo, Sheyesh Adam Sheohev Davarze, Vesh Adam Shesoneh Davarze. Ci sono persone a cui piace una certa cosa e altre persone a cui che detestano la stessa cosa. A me piace questo, no, io quello lo odio, a me piace quest'altra cosa. Da dove viene? È normale, certo che è normale, ma qui stiamo vedendo dal punto di vista mistico della cosa. Dice perché nella radice dell'anima è quella persona è più legata a quella cosa e non a quella cosa. E di conseguenza si esprime questa cosa nel corpo che vuole, è attratto da quella cosa, perché l'anima lo spinge verso quella cosa e lo respinge da quell'altra cosa che non c'è nessun legame. Ukeshehu mishtamesh beotoke li. E quando quella persona usa quel strumento, o ochel machal, ochel machal, o mangia un cibo, filo shetzorech gufa hu, anche se mangia il cibo perché deve vivere, mica perché ha qualche motivo metafisico, devo mangiare. Però anche all'insaputa metakena nizotzim, aggiusta letteralmente, cioè rettifica, porta alla rettifica di quelle scintille che si trovano in quell'oggetto. Che achar kach oved bekoach haze shebal gufo meoto malbush o machal, perché poi serve il Signore e lavora con l'energia che ha tratto da quel nutrimento che ha ricevuto da quel cibo o dalla protezione di quell'indumento e così via. La Chassidut prende questa cosa, la porta un passo avanti e dice: lo scopo della creazione, visto in questa ottica della purificazione e la rettifica di ciò che è nascosto a livello di scintille divine nel mondo materiale, allora chi è che porta a termine più lo scopo della creazione? Chi lavora, opera nel mondo materiale o chi si nasconde nella caverna della Kedushah, tra virgolette? È il primo, in realtà, che più del secondo porta a termine il motivo della creazione. Certo, ci sono quei personaggi particolari che devono essere dedicati in quella maniera, ma quelle sono le eccezioni, come abbiamo visto prima nel Talmud con Rabbi Shimon Bar Yochai, giusto? Ma per la maggior parte siamo persone che siamo tenuti ad occuparci della parte mondana della vita, non solamente perché, come diceva in questa fonte, perché devi mangiare. No, c'è qualcosa di molto più profondo dietro. Questo è lo scopo della creazione, lo scopo del mondo, dell'uomo nella creazione. Ecco che, tornando a Yaakov, ecco che torniamo a Yaakov, che il suo vero successo nella vita e i veri risultati che ha dato nella vita e per la perpetuità era nel momento in cui si è messo a lavorare. Era nel momento in cui, parola chiave, Vayetze Yaakov mi Be'er Sheva, Yaakov uscì fuori dalle tende. Ed ecco lì che diventò un altro Yaakov. Ed ecco lì che iniziò ad occuparsi, prima era, come avete detto, la preparazione, ma poi il mettere in atto. Una persona non può prepararsi tutta la vita, deve prepararsi e poi iniziare a mettere in atto, ad operare. Però va pensata, no, organizzata. E questo è il motivo per cui Yaakov si è messo i vestiti di Esav. Abbiamo letto nella parasha scorsa che Yaakov si è travestito da Esav. Non è solo l'aspetto semplice della storia. Un Yaakov, cioè un ebreo, è colui che si traveste da un Esav. Fa finta di far parte di un mondo che in realtà non ne fa parte, con lo scopo di rubare le berachot, cioè con lo scopo di tirare fuori da quel mondo quella kedushah che è nascosta lì. ed è un'operazione che a volte bisogna immedesimarsi, bisogna in qualche maniera creare un'illusione di essere qualcosa mentre in realtà si è qualcos'altro. Cioè, non in maniera mai sia disonesta, però la persona si dedica totalmente, come l'esempio di Jacob, si dedica totalmente per esempio al suo lavoro, è perché si deve dedicare totalmente, è perché non sarebbe onesto se non si dedicherebbe totalmente, se non si dedicasse onestamente, eccetera, eccetera. Però sa che c'è uno scopo, e lo scopo non è limitato a quello che è più evidente, anzi, lo scopo è quello meno evidente. In questo senso Jacob veste gli indumenti di Esav. È così che Jacob è tenuto a mettersi nel mondo, anche proteggendosi con quelle vesti, ma anche assumendo quella mondanità. Cioè non rimane un'anima senza corpo, deve essere un'anima in un corpo, se vogliamo vederlo da questo punto prima di vista. Deve essere anima. Però prima deve essere anima, benissimo. Per questo ogni ebreo ha due modi di vestirsi, i vestiti dei giorni feriali e gli indumenti del giorno dello Shabbat. Un ebreo prima di Shabbat si deve lavare, si deve cambiare, mettere vestiti che sono dedicati per Shabbat. Prima che entra Shabbat, così di accogliere lo Shabbat con le vesti dello Shabbat. Perché è così importante questa cosa che se ne parla anche nella Halakha. Pure, no? È paragonato Shabbat alla donna, moglie. Ma a parte questo, è perché siamo in una modalità diversa. Durante la settimana vestiamo i vesti di Esav e durante Shabbat vestiamo le vesti di Jacob. Si racconta nella Gemara di un commerciante che doveva viaggiare, viaggiava molto, e lui viaggiava praticamente per 3 mesi e tornava a casa per un giorno e poi viaggiava altri 3 mesi. Allora la Gemara racconta che questo commerciante, il giorno che tornava a casa, andava tutto il giorno e studiava nel Beit HaMidrash. Immagina. Un giorno per tornare a casa, cosa fa? Dedica quel giorno allo studio. Allora gli allievi fissi della yeshiva lo prendevano in giro, dicevano: questo qui è lo studente di un giorno. Cioè, che senso ha questo tipo di studio? Bar Beirav de Chad Yoma, dicevano: sei un Talmid Chacham, cioè un allievo studente di un giorno. Però Rabbi Yochanan, che era il grande maestro dell'epoca, vide in questa persona una grandezza, la vide come una grande persona, e disse agli allievi: quando lui lavora per 3 mesi e poi ha un giorno libero e viene a studiare in quel giorno libero, non è uno studente di un giorno, è uno studente di 3 mesi più un giorno. Perché il fatto che lui dedica quei pochi momenti liberi che ha per la Torah indica questo fatto, che in tutti quei 3 mesi a cosa sta pensando? A quel giorno. Non è uno studente di un giorno. Bellissima storia. Tutto ciò che lui faceva era l'Eshem Shamaim. Questo vuol dire Yaakov, sì, però con le vesti di Esav, cioè l'Eshem Shamaim. Anche con le vesti di Esav. Allora, questa storia è anche una storia che ci mette in condizione di dover rispondere a qualcosa, di dire sì, devo lavorare, è giusto, questo è lo scopo dell'uomo, è di migliorare questo mondo nel livello di lavoro mondano, eccetera. Però quando ho un momento libero, cosa devo fare? Studiare. Devo dedicare momenti liberi nella maniera giusta. Comunque, come avevi detto già sabato, che la connessione la devi trovare in ogni giorno, cioè inizi la giornata. Certamente ogni giorno. Con la connessione per lavorare. Sì. Allora concludiamo questa lezione appunto con questa bellissima citazione del Talmud, del trattato di Chagigah, dove dice quello lì che viene a studiare un giorno ogni tre mesi, in realtà sta studiando per tre mesi più un giorno e poi per tre mesi più un giorno, perché se lui dedica quel momento libero allo studio vuol dire che è quello il suo vero scopo, il suo vero pensiero. Allora anche a tutti noi che forse non abbiamo la possibilità di studiare la Torah 24 ore al giorno o neanche 12 ore al giorno, però la domanda è: quei due minuti, quei cinque minuti o quella ora che noi abbiamo, se è quel momento al quale aspettiamo, per il quale aspettiamo nel momento in cui stiamo facendo altre cose, allora siamo su una buona strada.